Scusi, cu nove moto? Cu nove che? Moto! Il gioco del biliardo si pratica con palle di resina sintetica. I pezzi minori sono accompagnati da una torre. Un classico che più classico non si può. Per divertirsi anni sono andato soggetto e feci questo per sette lunghe notti. Il colonnello si alzò e si tolse la giacca. Produce un mirtillo in dolce montagna. Vive giornate che sembrano tese, conobbe quell'uomo di poche pretese, il cane fedele, equinozio d'inverno, gettando i lombrichi via verso l'interno, con cuore spavaldo e sguardo fellone, disobbediva al suo pigmalione. La vecchia zia sembrava una rossa giraffa, senza denti di nome Rosaria, la quintessenza del prato fiorito, così non puoi dire che parlo forbito. Rosso di sera mi metto la crema, giunge mattina, tra poco si stira, e concludendo l'amara questione, meglio un fioretto che zuppa di more. Ciaccia con la ciccia, ma più ciaccia più pasticcia. Francesco studia come si muovono le palle. La gabbia dorata. Signori, ci siamo divertiti. Sì, ma cosa è servito? Del biliardo si pratica con palle di resina sintetica. Ma? I pezzi minori sono accompagnati da una torre. Un classico che più classico non si può. Inserite il dischetto nel drive up e veniamo al concreto.